non riesco però a non notare che dagli anni 30 non si vedeva una forza politica in Europa i cui esponenti mettono sulla giacca, sul bavero o sulla manica della giacca o nel taschino i simboli di partito. Dagli anni 30 anche lei cade come Gifuni? Lei si ricorda un altro partito politico che aveva... Che poi, scusi, dagli anni 30 che vuol dire? Il fascismo o il nazismo? Perché in Germania andava molto la giacca con la svastica sulla manica. Cioè i leghisti come i nazisti? No, io non ho detto questo, ho detto che dagli anni 30 non si vedevano simboli di partito messi sugli abiti civili. Io ho visto la senatrice Mauro, vicepresidente del Senato, presiedere il Senato della Repubblica con un grosso coso verde sulla giacca. Io penso che se stai nel Senato della Repubblica presiedi in nome del tricolore. Penso, appunto, tornavo ai riti millenari delle grandi democrazie. Nelle grandi democrazie, sa che c'è la bella cosa delle grandi democrazie mature? Che si può essere molto molto in disaccordo sui contenuti, ma nessuno prende mai a calci le istituzioni comuni, perché a prendere a botte i pilastri della casa, il tetto cade sulla testa di tutti, ed è questo quello che la Lega non capisce. Mm.